Radio 24. Libera la voglia di fare. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Ma buongiorno. C'ho ancora un po' di reminiscenza francese. Allora, domenica scorsa abbiamo iniziato a elencare una sorta di 10 punti, di 10 comandamenti della relazione col cane, io li ho chiamati così. Allora, il primo punto di cui abbiamo parlato domenica scorsa, se volete ve lo potete andare a riascoltare nei podcast di Radio 24, era: abbandona velocemente l'idea di essere un capo. Perché è controproducente. Bla, bla, bla. Poi tra l'altro è interessante fare anche dei paralleli, come spesso facciamo, no? nelle relazioni umane. Tu pensa se ogni relazione tu dovessi viverla dicendo devo essere io il capo, che ci sono quelli così. Sì, beh, amore, a parte fra me e te, perché fra me e te sono il capo, sono sì, io. Sì, sì, no, a parte quello, capite in che condizioni io mi trovo in questo momento. Poi ci sono delle eccezioni che confermano le regole, ovviamente. Certo. Parliamo di questo libro fantastico, Diritto al cuore del tuo cane, che ha scritto Angelo Vaira nell'anno non so quale, ma che fra l'altro Nel 2011 è stato il libro per il quale mi sono innamorata di quest'uomo. Ho letto questo libro. Che bello. Vedi? Ce l'ho qua tutto stropicciato con su scritto ti amo di fianco, quando ancora tu non mi avevi neanche visto. Di fianco, e conosciuto. A te, di fianco a te. Di fianco alla tua scritta, Angelo Vaira, io ho scritto ti amo con la birra. Ma sono romantico. Come gli adolescenti, che bravo. Che bravo. Allora, il secondo punto di oggi è: lasciali abitare casa tua, non solo il giardino. Ecco, questo sì è un punto fondamentale, perché sai, in questi 20 anni in cui ho lavorato con i cani, spesso il cane è in giardino, e devo dire che ho rilevato una grossa differenza di cambiamento. Cioè i cani che vivono in casa e che quindi hanno più possibilità di entrare in relazione, in comunicare con noi, sono più veloci a cambiare, sono più facili da educare, hanno un cervello più plastico. Quando invece il cane lo lascia in giardino abbandonato a se stesso, sì, ha meno occasioni di scambio con di te, evolvere. E quindi ovviamente il suo cervello è un po' più è più rattrappito, possiamo dire, cioè è meno stimolato, e quindi il cervello, dobbiamo ricordare, come un muscolo, cioè più lo alleni più cresce, perché c'è una generazione di nuovi neuroni e collegamenti neurali. Nel frattempo Rosita, invece di stare qui con voi, vuol dire stava innamorata a guardare la sua euforia che no, ma ti stavo ascoltando, perché mi è venuto in mente anche di questa ascoltatrice che ci ha scritto, che se non ricordo male si chiamava Michela, ma non vorrei fare una gaffa, poi andiamo a vedere se troviamo la sua mail, che l'abbiamo intervistata più di una volta, perché lei, quando tu gli avevi raccontato che non andavano lasciati i cani in giardino, lei ha voluto darti ascolto e ci ha scritto una lettera che ci ha commosso, dove dice che è effettivamente, quando ha provato a farli entrare, a interagire di più in casa con lei, i figli e il suo compagno, gli si era aperto un mondo, aveva scoperto che i cani effettivamente erano molto più felici. No, poi voglio dire, oramai, pensa, oramai nel 2016 è stata emessa una sentenza da parte della Corte di Cassazione che dice che lasciare il cane da solo in giardino è reato. Ecco, vedi. Pensa a te. Qui c'è stata una conferma di una condanna a 2000 euro di multa per il reato previsto dall'articolo 727 del codice penale nei confronti di un uomo giudicato responsabile di aver inflitto gravi sofferenze al proprio pastore tedesco, perché il povero animale viveva in condizioni di salute precarie, non si reggeva sulle zampe, aveva macchie di sangue, otite, via dicendo, no? La sentenza dice: in un luogo distante dalla propria abitazione, quindi con poche occasioni di stare in compagnia, ed è proprio questo di quello di cui parliamo, perché poi tante volte tu lo vedi, io a volte faccio le passeggiate in campagna e vedo questi cani da soli nei serragli, sì, senza nessuno attorno, sì, infatti. Poi tra l'altro te li possono o anche rubare, nelle ditte, nelle fabbriche può succedere qualcosa, un incendio, un allagamento, qualcosa, e tu te ne stai da solo a casa, quindi hai poche anche occasioni di confronto e non ti rendi neanche conto di come sta il tuo cane, no? Certo. Anche se ci vai tutti i giorni, no, il cane non soltanto non deve stare lì, te lo porti a casa, ma non deve stare in giardino. La natura del cane, perché molti sono convinti che la natura del cane sia quella di stare in giardino. No, la natura del cane, che è un animale sociale, è quella di sentirsi parte del gruppo. Un cane da solo in giardino, parte del gruppo, non ci si sente. Io vorrei, l'abbiamo detto in altre puntate, in altre occasioni, ogni tanto io voglio ricordarlo. A me piacerebbe che anche in Italia ci fosse la legge come in Svizzera, che tu devi avere una sorta di, chiamiamolo, patentino prima di poter come si dice, adottare un cane, sia che lo prendi in allevamento, sia mi che sa lo che prendi... non c'è più quella roba là, sai? In Svizzera? È decaduta, non sì. Ci voglio credere, c'è una cosa sì. Intelligente, la cosa intelligente non c'è più. Vabbè, chi se ne frega, loro non ce l'hanno più e non lo prendiamo noi, cioè noi dobbiamo migliorarci, anche se loro non lo fanno più, ma sai, è un modo, è un atteggiamento di civiltà proprio a 360 gradi, no, questo, no? Facciamo un altro parallelo con gli esseri umani. domani, ma noi quando ce ne stiamo sempre da soli in uno stesso posto, anche quando abbiamo la febbre semplicemente, ce ne stiamo a casa, dopo un po' sentiamo l'esigenza di guardare qualcosa su YouTube, leggere un giornale, leggerci un libro, fare una telefonata, perché stare lì senza far nulla tutto il tempo ti pesa un po'. È la stessa cosa per il cane. Sai quanti clienti dicono il mio cane scava le buche in giardino, mi distrugge la cosa? Ma la cosa è naturale, se quello non ha niente da fare si deve inventare qualcosa. E pensa, qui c'è una differenza per esempio che noi possiamo tracciare tra i metodi di addestramento oltre Alpe, cioè fuori dall'Italia, quello che invece oggi è l'Italia, che per molti siamo avantissimo rispetto a tutto il resto del mondo in questo settore. Assolutamente. Meno sì male. Perché se tu vai da un addestratore anglosassone per esempio, è abbastanza facile che ti si ingegni qualcosa per punire il cane nel momento in cui va a scavare le buche, no? Perché gli devo insegnare, sulla questione di tutto apprendimento, devi imparare che quella cosa non si fa. Sì, ok, non fa quello, ma quello è il sintomo. Allora tu devi agire sulle cause. Quella cosa lì di scavare le buche è la risposta delle necessità psicologiche e fisiologiche del cane, che deve fare movimento e si deve avere anche una certa varietà. Se quei bisogni tu li vai a frustrare, quindi non te lo faccio fare più questa roba qua, ti verrà fuori da altre parti. Questo è l'approccio cognitivo, cioè io devo andare a fondo, devo rendermi conto di quali siano i bisogni del cane. La stessa cosa devo farlo con me stesso e con le persone che amo, che mi stanno intorno. Intesi? Oh, no, un piccolo break, così ci pensateci su bene. Siamo già al break? Eh sì. Va. Pensateci bene, torniamo fra poco. A fra poco. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Allora, diciamo sempre di tirar fuori i cani dai canili. Prima sì. Poco fa abbiamo parlato di rendere partecipi i nostri cani della nostra vita. Ebbene, sponsorizziamo sempre i cani nei canili, perché quando una persona va lì e ama i cani si rende conto che per questi cani bisogna fare qualcosa. Allora, ci sono delle persone speciali che per questi cani non fanno soltanto l'adozione, ma cioè non è che vanno al canile e prendono il cane e basta, ma sono in canile tutti i giorni. E vivono questa realtà attimo per attimo. Molto coraggiosamente, perché molte persone mi dicono sempre: Angelo, quanto mi piacerebbe avere quel coraggio di andare in canile, perché mi piacerebbe fare volontariato, ma io proprio non ci riesco. Allora, ci sono delle persone che invece lo fanno, che passano oltre i loro sentimenti in quel momento, probabilmente di tristezza, devastati, no, dalla condizione di questi cani, si rimboccano le maniche. Spalano merda, fanno tutto quello che devono fare, portano i cani in giro e via dicendo. Ora c'è una situazione molto particolare che sta vivendo in questo momento il canile della Muratella a Roma. Di Roma. Allora abbiamo con noi Matteo Piscozzo, che è un ex lavoratore del canile di Muratella, che ci può informare su quello che sta succedendo lì. Pronto, Matteo? Buongiorno a tutti. Eccoci, ciao, buongiorno. Matteo. Allora, buongiorno. Tu sei un ex lavoratore in che senso? Perché ex lavoratore? Perché non ci stai lavorando più? Beh, perché la Onlus per cui lavoravo, a seguito della fine della convenzione con il Comune di Roma, ha attuato dei licenziamenti collettivi il primo maggio. E il Comune dal primo maggio si è totalmente disinteressato del canile comunale, lasciando soli 600 cani, 80 gatti, e noi siamo stati costretti a iniziare un'autogestione, quindi da licenziati senza lo stipendio ci siamo ritrovati a gestire uno dei canili più grossi d'Europa. Però aspetta, che non mi è chiara una cosa. Allora, prima c'era la Onlus, poi è scaduto il mandato, come si fa normalmente? C'è un bando di concorso, credo, cos'è che c'è? Sì, è scaduto il comune non ha rinnovato la convenzione, dopodiché è arrivata la giunta commissariale, e questa giunta commissariale ha costruito un bando che noi abbiamo fin da subito criticato, ritenuto vergognoso, lottando con le unghie e con i denti, perché ritenevamo che se questo bando fosse stato assegnato non avrebbe garantito né la tutela occupazionale e tantomeno il benessere animale. Ok, allora per farci capire da quelli che ci stanno ascoltando, il bando che cos'è? È il comune che promulga una serie di regole per poter partecipare appunto a questa gara per poter avere poi l'appalto e aggiudicarsi quindi il canile. Ricordiamo anche chi ci sta ascoltando, perché qualche volta ce ne siamo già occupati, che purtroppo dietro la gestione dei canili c'è anche da parte di di molti un bel business, perché per ogni cane il comune versa dei soldi, e quindi ci sono associazioni che normalmente, ecco, sono costituite come onlus, quindi senza scopo di lucro e invece a sfondo sociale, che amministrano tutto perfettamente. Ce ne sono altre che invece giocano al ribasso con le spese per potersi intascare soldi. E infatti il problema è stato proprio questo, perché il bando costruito durante la giunta commissariale era un bando che garantiva alle aziende private, era un bando che metteva pochissimi soldi per poter gestire il canile della muratella. Questo avrebbe voluto dire che una piccolissima parte degli ex lavoratori sarebbe stata assunta e per giunta da un'azienda privata, e purtroppo così è stato, nel così senso è stato. Che arrivando a luglio a Roma Virginia Raggi, il Movimento 5 Stelle, nonostante in campagna elettorale criticava fortemente questo bando, promettendo che se avessero vinto lo avrebbero ritirato e riformulato, e così non è successo. Noi quindi, scusami, abbiamo... perdonami, se vediamo se ho capito, non è stato il Movimento 5 Stelle a promulgare questo bando, no. È stata una commissione di passaggio. Sì, il bando è stato costruito durante la giunta commissariale, tra la caduta del sindaco Marino e l'avvento di Virginia Raggi. E nonostante questo, diciamo, in campagna elettorale il Movimento 5 Stelle si è impegnato, questo bando si era scagliato, però una volta arrivato a luglio al Campidoglio non ha fatto nulla, e il 20 dicembre il bando lo hanno assegnato definitivamente, e il 17 gennaio l'azienda privata SRL Agroaversano di Mondragone si è insediata al canile della muratella. Nei canili comunali non c'è più una onlus, non si può più neanche definire un servizio pubblico, ma sono entrati i privati, è entrata un'azienda privata, una società, che è la SRL Agroaversano. Che ovviamente lo scopo di un SRL costitutivamente è fare soldi. È fare soldi, prima di tutto è fare soldi. Ma voi avete già visto, è già successo, è già mancato qualche cane, piuttosto che è già successo qualcosa? Beh, sono successe tante cose, è proprio per questo che noi qualche giorno fa siamo saliti, una parte, due, tre ragazzi di noi sono saliti su un'impalcatura, proprio perché disperati volevamo un'interlocuzione con la massima autorità in campo, diciamo, del comune, ossia con Virginia Raggi, perché abbiamo fatto tanti incontri con il presidente della commissione ambiente, con gli assessori che sono cambiati, prima la Muraro, poi la Montanari, senza riuscire a farci ascoltare realmente e senza capire le nostre ragioni. Esasperati, già da licenziati, siamo saliti su un'impalcatura qualche giorno fa. Anche lì Virginia Raggi non ci ha voluto ascoltare, siamo scesi per fare l'ennesimo incontro con l'assessore, però in questi giorni insomma già qualcosa è successo all'interno di Muratella, forse soltanto che, come dicevamo noi, con i pochi soldi messi a bando, questa azienda privata ha potuto assumere soltanto una piccolissima parte della forza lavoro di Muratella. Io su questo vorrei approfondire un punto. Sì. La forza lavoro di Muratella è veramente altamente specializzata, perché erano 70 lavoratori che in questi 15 anni, a loro spese, hanno fatto corsi, si sono aggiornati, hanno fatto stage. Certo. Ed eravamo anche per la stessa politica un fiore all'occhiello del Comune di Roma. Infatti io mi ricordo delle vecchie condizioni del canile di Muratella, in 15 anni erano cambiate in meglio tantissime cose, con grande stupore da parte di tutti, quindi 70 lavoratori. Ma non solo. Che invece sono diventati, con questa RL, quanti lavoratori sono stati confermati? Allora, Al momento sono stati contrattualizzati all'incirca 20 lavoratori. Tra l'altro quello che noi denunciavamo è che queste 20 assunzioni sono state fatte senza nessun criterio meritocratico, non considerando la presenza reale dei lavoratori anche soltanto in questi 8 mesi di autogestione. Sono state assunzioni a dir poco opache, e anche per questo noi abbiamo attuato l'ultima estrema protesta per denunciare questo: assunzioni opache in mancanza di nessun criterio reale, meritocratico. Ma pensa che, allora, noi abbiamo ricevuto qui la nostra mail, fra l'altro, che ricordo, chiedimi se sono felice, @radio24.it, una mail di una signora, di una donna di Roma, che mi ha detto che era talmente orgogliosa e fiera di come era gestito la muratella prima, che lei se ne vantava in giro e spesso veniva lì, veniva a vedere, e ora ha chiesto aiuto a noi appunto della radio perché se ne parlasse. Le ho detto che avevamo un contatto con voi. Ora io ti voglio chiedere una cosa. Tu sai per caso che cosa può succedere? Cioè, un sindaco, ora il sindaco se, che vi prende in considerazione e vi ascolta, legalmente che può fare se questi adesso hanno vinto il bando? Tu hai idea di che cosa si può fare? Perché sai, io provo a pensare, io sindaco, nell'entrare a far sindaco, nel passaggio che c'era stato, insomma in tutto questo marasma politico che purtroppo l'Italia vive non solo a Roma ma in tutte le situazioni, è partito sto bando e l'hanno vinto questi qui, l'ha vinto questa società. Ora voi chiedete di essere ascoltati, ma legalmente uno com'è che fa ora a buttare fuori questa società piuttosto che dare, cioè che cos'è che si può fare di tecnico? Ma, guarda, veramente civicamente possiamo dire che ormai i buoi sono scappati e chiudere la stalla ormai è inutile. Noi abbiamo avuto per 7 mesi, abbiamo gridato all'amministrazione le nefandezze di questo bando, e la legge prevede, permette che un'amministrazione possa in qualunque momento ritirare un bando. Ah, okay. Ed era questo che noi chiedevamo, noi non volevamo poteva ritirare il bando, privilegi. Però no, questo certo, lo... allora... noi non volevamo privilegi, noi volevamo semplicemente che questo bando venisse ritirato, certo, costruendone uno migliore. Ok, ora questo l'ho capito, però siccome ora purtroppo questo bando è sfuggito al controllo ed è stato fatto ed è stato vinto da questo appalto, ora se voi incontrate, no perché io te lo dico, perché se io fossi la Raggi e decido di ascoltarvi, voi mi dovete portare, mi dovete dire qual è l'alternativa, mi dovete, cioè vuol dire, ovvio che io essendo un sindaco sicuramente ho sotto mano una possibilità, cioè, per diciamo, cambiare. C'è però stato un errore da parte del sindaco di non aver ritirato il bando quando c'è faceva, quando avrebbe fatto ancora in tempo. Sì, bisogna capire se fra i mille casini realtà, che aveva il sindaco, sapeva anche che c'era questo sottomano. Ne ha parlato in campagna elettorale. Ne parlarono, non uno qualunque, ma Marcello Di Vito venne proprio da me a Muratella. Ma okay, gli assessori esistono apposta per questo. La politica è delega. Noi non pretendevamo che Raggi sapesse tutto di tutto. Ah, certo. Ma gli assessori esistono per questo, per interagire con i lavoratori degli argomenti dell'assessore di riferimento e riferire al sindaco. Ma quello che noi diciamo è che paradossalmente un bando potrebbe essere ritirato anche dopo l'assegnazione. Chiaramente non c'è la volontà politica. Assolutamente. Quello che noi esasperati volevamo denunciare, andando da parte di noi in un'impalcatura, era non solo le nefandezze di questo bando, ma quello che sta avvenendo nei giorni successivi, le assunzioni fatte in maniera opaca. Ora vedremo cosa succederà. Nel secondo giorno di insediamento di Agro Aversano è arrivata in pompa magna a Muratella l'ispettorato del lavoro. Sono successe cose strane, io non sto qua a dire cosa, saranno poi verbali eventualmente a riferirle. E quindi noi volevamo denunciare quello che anche nei pochi giorni di insediamento di Agro Aversano era successo. Quindi in pratica non sappiamo bene che cosa possa fare a questo punto il sindaco, però quantomeno sensibilizziamo l'opinione pubblica, così come stiamo facendo adesso. No, non solo, ma tenere d'occhio che non succedano cose strane, che i cani stiano bene, perché se oggettivamente uno dimostra e fa vedere che i cani sono tenuti in condizioni pessime, a quel punto uno ha tutte le carte in regola per poter ritirare. Io per esperienza sequestrare il canino. Per esperienza vi dico questo, la cosa più semplice da far vedere in un canile, per far vedere che funziona, è tenere le gabbie pulite. Ah, certo. Ma le gabbie pulite sono veramente un minimo, una piccolissima parte del benessere animale, perché la qualità della vita di un cane al canile si misura da tante anche altre cose, dalla cura della mano, da quanto quel cane è seguito. Matteo, allora facciamo una cosa. Allora ascolta Matteo, facciamo una cosa, abbiamo fatto un appello in radio tramite voi. Voi fate dei video delle cose che è dentro, che tenga monitorato che cosa sta succedendo, perché allora, i video rimangono inequivocabili. Sì. Allora guardate, per chiunque voglia seguire la lotta che continua degli ex lavoratori, c'è una pagina Facebook, che è la pagina Io Me Ne Occupo. Okay. È la pagina che rappresenta i lavoratori auto-organizzati, senza sigle sindacali, che hanno portato avanti questa lotta di dignità per okay, i cani e per i lavoratori. Bene, senti Matteo, abbiamo dato voce a questa vostra lotta, qualunque cosa teneteci aggiornati e speriamo in bene, cercheremo anche noi di sensibilizzare il più possibile, di capire cosa possiamo fare oltre alla radio. Grazie Matteo e coraggio a tutti i volontari, ex dipendenti delle canine di Muratella, avete fatto un gran lavoro e spero che grazie vi venga mille, riconosciuto. Grazie. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. E dunque abbiamo fatto cultura in questo più di un anno, no? Che stiamo facendo questa, sì, questa bella trasmissione. Sì. La domanda principale quando uno adotta è chiedersi: ma io riuscirò a rendere felice quest'altra vita? Piuttosto che chiederci che cosa farà nella mia, no? Che cosa apporterà, che è una bella cosa. Che poi però... voglio dire, se tu rendi felice là il prossimo, se sei una persona sana, diventi, sei felice pure tu, perché diventa uno, un si deve circolo chiedere vizioso sano. Le persone che ama e anche i gatti e i cani che sta adottando, ma sarà felice? Sarò in grado di fare questa cosa qui? Da questa domanda poi scaturiscono tutta un'altra serie di cose meravigliose, altrimenti uno adotta soltanto per prendere, non per dare. Però qualcuno si sarà chiesto come faccio ad adottare il cane, ma sappiamo anche che si possono adottare dei gatti. E allora, visto che abbiamo la nostra ascoltatrice che si occupa esattamente di questo, ci siamo chiesti: ma perché non intervistarla? Sì, ci ha scritto una bellissima mail che ci ha colpito, e quindi abbiamo detto: proviamo a chiamarla, perché così facciamo raccontare da chi la vive quotidianamente il rapporto, per esempio, con il gatto. Con il gatto e tutto quello che ruota attorno alle adozioni dei gatti. Allora abbiamo con noi Elena Angeli dell'associazione Gli Amici di Chicco. Buongiorno. A tutti. Ciao, per la precisione, Elena. Amici di Chicco senza gli. Senza gli. Sì. Giusto? Amici di Chicco, sì. La cosa che mi ha colpito di più guardando il tuo blog, Elena, è stata la pagina dove c'è un micetto nero con su scritto: l'unica cosa che porta sfiga è la tua ignoranza. Io partirei da questo, cioè sui gatti neri. Pensa che erano i gatti che a me piacevano di più e li portavo sempre a casa. No, perché c'è, allora, ci sono anche, purtroppo, questa cosa qui del gatto nero combacia con una cosa che mi raccontava Angelo, che non avevo valutato. Pensa che dal canile anche i cani neri, i cani scuri, sono quelli più difficilmente adottati. È vero. Ecco, no, io conosco purtroppo questa realtà dei gatti neri che è ancora molto diffusa. Ci sono un sacco di pregiudizi nei confronti dei gatti neri, e spesso nelle cucciolate o anche nei gattili sono tra gli ultimi ad ma essere certo, adottati. Cioè, perché, ma certo, perché uno se lo mette in casa un gatto del genere e mette che attraversa il corridoio da una stanza, e poi che fai? Rimani bloccato in una parte della casa. Io capisco, no, questa gente che... Sì, certo. No, quindi noi diciamo che ci occupiamo proprio di combattere questi pregiudizi nei confronti dei gatti. Ce ne sono tantissimi. Uno tra questi, appunto, purtroppo, è quello nei confronti dei gatti neri. Per esempio, i gatti neri randagi sono spesso soggetti a forme di violenza o... Pensa che il nome Associazione di Chicco nasce da una situazione simile a quella che ho vissuto anche con mia figlia, perché mia figlia, la prima adozione che lei ha vissuto è stata quella di una gatta anziana, e che purtroppo dopo qualche mese questa gatta è morta. Però io sono stato felice in quel momento di poter insegnare a mia figlia che non è che tu devi prendere per forza il cucciolino adorabile e via dicendo. Occupiamoci di chi ha veramente bisogno. Ecco, questa gatta qui era abbandonata in un giardino da sola, rachitica, eccetera eccetera. Se ne era occupata un'associazione e l'abbiamo presa. Beh, ma poco tempo fa abbiamo fatto tutta anche noi una gattina sorda, anziana, tutta, che adesso sta benissimo. E adesso sta Natale, benissimo, ti ricordi? Allora, sì. Io vorrei che Elena ci raccontasse perché questo nome Amici di Chicco. Amici di Chicco perché Chicco è stato appunto uno del nostro gatto, che è stato un gatto un po' sfortunato, perché era un gatto che ha vissuto tutta la sua vita in un gattile, tra l'altro è stato da solo nella gabbietta perché aveva problemi di struvite, quindi aveva un'alimentazione particolare. Aveva problemi di? Struvite. Che sarebbe praticamente, devono avere un'alimentazione particolare povera di sale, perché hanno la tendenza a formare i calcoli renali. Nei gatti maschi è molto frequente, ma è una cosa banale, basta appunto un'alimentazione controllata, solo che al gattile purtroppo questa attenzione è scaturita nel doverlo tenere isolato dagli isolato, altri. Quindi tutta la vita in gattile, sì, in un box piccolino da solo, un gatto che in realtà aveva un grande bisogno di affetto. Al gattile lo chiamavano il gatto a braccione, perché tutte le volte che vedeva una volontaria gli si buttava in collo. Poi tu pensa che c'è, allora, gatto a braccione. Ne approfitto per sfatare un mito che noi abbiamo, cioè, si dice che i gatti sono solitari. Allora, i gatti amano risolvere i problemi, cacciare in modo solitario, però perché si formano le colonie feline? Perché il gatto è felice di vederti al mattino? Perché molte persone dicono, meno male che mi sono trasferito e mi sono portato pure via il gatto, perché quello sennò... ed è contento di stare con me. Quindi bisogna stare attenti a queste cose qua. Non è che se te metti il gatto da solo, col gatto sta bene. No, certo. No, assolutamente. Sì, hanno infatti un altro pregiudizio, è quello, no, che il cane si affeziona al padrone, il gatto alla casa. Anche questo, chi ha un gatto sa che in realtà la relazione che si stabilisce tra il gatto e l'uomo è una relazione molto intensa, molto, molto affettiva, sì. Sì, decisamente. Ma lo vedi subito, se vengono gli ospiti a casa sua, a casa tua, non è che il gatto si comporta in modo uguale a tutti quelli che visitano la casa. No, quindi, certo. Per alcuni aspetti probabilmente sì, per alcuni gatti assolutamente no, per altri aspetti invece ci sono delle cose che il gatto fa solo con te e le dedica solo a te, ed è evidente quindi che ha stabilito una relazione, come si dice, speciale, ecco, possiamo dire, sì, così. Sì, sì. Quindi voi avete adottato questo gatto che era già anziano? Sì. Sì, dopo anni di appelli che nessuno, appunto questo gatto purtroppo non l'ha voluto nessuno, l'abbiamo adottato, però ormai forse, ecco, la vita del gattile l'aveva veramente un po' provato, segnato. Non era un gatto più giovane, e dopo pochi mesi l'abbiamo dovuto appunto salutare, però per noi è stato un grande dolore, forse maggiore rispetto agli altri, proprio perché Chicco non aveva avuto una vita felice, noi avremmo voluto che stesse con noi più a lungo, e quindi in suo ricordo, in sua memoria, abbiamo deciso di fondare questa associazione per far capire alle persone che si può anche andare nei gattili e adottare un bel micione adulto. Certo, ma quindi la vostra associazione si occupa di che cosa di preciso? Noi siamo online e facciamo delle campagne digitali, ci occupiamo di scrivere nei giornali, di fare promozione e fare comunicazione. Spesso ci capita di fare da tramite, le persone magari ci scrivono e vogliono un gatto, noi facciamo da tramite con le associazioni del nostro territorio e i gattili della Toscana, però più che altro ci muoviamo appunto online e facciamo comunicazione. Ah, bene, benissimo. Senti, ma come si dice, come si può, avete bisogno di sensibilizzare la gente, piuttosto che, sì, piuttosto che, com'è che possiamo esservi d'aiuto noi? Noi, se venite nella nostra pagina Facebook o sul nostro sito e ricondividete una delle nostre immagini, il nostro hashtag da battaglia è adotto un gatto adulto, ci raccontate magari la vostra storia, ci scrivono molte persone che hanno adottato dei gatti adulti e è stata una sorpresa, perché non si aspettavano che il gatto si abituasse così bene alla vita di casa e che gli potesse dare così tanto affetto. Ecco, queste testimonianze per noi sono importanti, perché fanno un po' cambiare l'idea alle persone, ecco. Pensa, io, questa è una mia opinione personale, cioè a me piacerebbe vedere non i gatti in appartamento, no, ma vederli liberi. Voglio però, no, lo dico io stesso, voglio ricordare però che un gatto in appartamento fa una vita comunque più che dignitosa rispetto, per esempio, a lasciarlo in gattile per tutto il tempo. Quindi esatto, infatti meglio che al gattile ce li possiamo portare in appartamento. In effetti il gatto, la situazione ideale dovrebbe essere quella di vivere in una casa con la possibilità anche di andare fuori, sì. Però purtroppo non sempre è possibile. Sì, meglio del gattile una casa con le persone che gli vogliano bene, secondo me. Benissimo. Senti, guarda, grazie, ci ha fatto un sacco piacere fare questa chiacchiera con te, così abbiamo parlato, contribuiamo a sensibilizzare anche il rapporto con i gatti. E chissà, se passiamo dalle tue parti, passiamo a salutarti. Certo, volentieri. D'accordo. Quando volete. Grazie di nuovo. Risalutiamo Elena Angeli di Amici di Chicco. Andate su internet a raccogliere altre informazioni. Ciao Elena, presto. Ciao Elena, ciao. Senti, io purtroppo invece ho trovato una notizia su Green Style veramente deplorevole, che un po' me la stile. Green Style, che un po' mi aspettavo. Cani da borsetta, finisce il trend, aumentano gli abbandoni. Allora, dopo la moda lanciata un po' da Paris Hilton a Britney Spears in America, soprattutto, che queste adottano 700 cani piccoli, li portano con i collarini, con gli strass nelle borsette, tutte griffate così. Sì, perché è un gadget. È un gadget, esatto. Loro però, grazie al cielo, sembra che si continuino a occupare dei loro cani di piccola taglia, mentre sembra che stia aumentando in un modo vergognoso l'abbandono di questi piccoli cani. Perché dice che... Praticamente nel Regno Unito, ad esempio, il Dog Trust ha assistito nell'ultimo anno a un aumento del 444% degli esemplari di piccola taglia affidati ai centri di sua gestione, perché sembra che molti non riuscirebbero a stare al passo delle necessità di questi cani che, essendo di una stazza molto piccola, necessitano di controlli più frequenti, di gestione quotidiana abbastanza certosina. Allora che cosa fanno? Come accade ovviamente con un accessorio di moda, alcuni proprietari hanno deciso di sbarazzarsene. Ma pensate. In un'ottica di sensibilizzazione, il Dog Trust ha deciso di avviare alcune campagne sia per informare sulle necessità di cani da borsetta, ma anche per scongiurare gli abbandoni oppure le adozioni fatte con leggerezza. Pensa che chi ci sta ascoltando, quando io ho assistito io personalmente ad una scena moltissimi anni fa, una quindicina d'anni fa, ero al canile di Serriate, mi ricordo ancora, è arrivato lì un papà con un bambino che avrà avuto 5-6 anni, ecco, una cosa del genere, e un cagnolino tutto bianco che avevano adottato 15 giorni prima dallo stesso canile. Sì. Lui è tornato dicendo: guarda, purtroppo mia moglie non lo vuole più perché sporca in casa, perché ha fatto la pipì in casa, perché fa la pipì in casa. Il cane era molto giovane, quindi ci stava pure che faceva la pipì in casa. Allora sappiatelo, sì, il cane quando tu lo porti a casa potrebbe avere questo problema e tu potresti avere la necessità di insegnargli a non sporcare più in casa. Ma la cosa raccapricciante è che tu pensi di esserti liberato di un problema, in realtà hai appena insegnato a tuo figlio, porca di quella miseria, che la gente si usa, che tu prendi le cose, le usi a tua convenienza, e tanto chi se ne frega di quello che sta vivendo quel cane lì. Ma io mi ricordo queste pseudo starlette da quattro soldi che vanno nei programmi pomeridiani a raccontare che regalano il chihuahua alle loro bambine di 4-5 anni e che la bambina per giocare lanciava in alto il chihuahua a cucciolo e poi cadeva battendo la testa. La mamma gli diceva: no amore, non si fa così. Questa cretina italiana ovviamente ne adotta purtroppo diversi, è una anche che non avrebbe problemi economici, però è un idiota perché sta insegnando quello che dici tu alla bambina e soprattutto usa questi cagnolini come gadget. Detto ciò, a me fate veramente schifo, ve lo dico col cuore. Vi saluto e vi auguro una buona... Anzi no, dobbiamo mangiare! Ma scherzi, no. Tra poco parleremo tra l'altro della buona notizia della chiusura di un circo che da dopo 146 anni con questa cosa, mi sono imbambita. E poi andremo a mangiare con le ricette di Mara di Noia. Ci sentiamo tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Oh, apriamo un angolo, un siparietto sul nostro momento, piccolo momento di felicità. Esatto, il nostro momento, piccolo momento qui di felicità. Diamo la nostra opinione, non dovremmo, però diamo la nostra opinione. Adesso la nostra opinione non è che è poi così tanto segreta, ci siamo trattenuti tanto, perché praticamente una notizia fantastica di questi ultimi giorni è che chiude lo spettacolo più grande del mondo. Il circo Barnum cala il sipario dopo 146 anni. Allora, a parte il fatto che sapete perfettamente che io e Angelo, come molti animalisti, facciamo battaglie perché non, i circhi esistano, e io che ho anche vissuto 3 anni al circo stimo e adoro la vita dei circensi perché sono grandi acrobati, si fa una bella vita da nomade viaggiando, si visitano posti, però sostengo da sempre che gli animali purtroppo vivono in una condizione sacrificata, molto sacrificata. Non è nella loro natura, non è nella loro natura saltare nei cerchi infuocati, non lo è spostarsi con i tendoni, e non vivere lo in è piccoli spazi, animali feroci, animali di tutti i tipi. E poi sappiamo, basta andare su YouTube, no? Non facciamo ascoltare, vai su YouTube e vedrai quanto questi animali vengono maltrattati, sentirai i barriti degli elefanti, anche il ciondolare degli elefanti a destra e a sinistra. Vabbè, che è questa famosa stereotipia che vuol dire che hanno un disagio psicologico. Tra l'altro io devo fare una parentesi perché ho letto un post purtroppo che c'è qualcuno dentro la cinofilia che veramente se ne approfitta tanto. Allora dice: quando chiudiamo i circhi noi non facciamo riunioni sull'etologia degli animali lì dentro, li chiudiamo e basta. Stessa cosa, era questo l'invito, dovremmo fare con l'addestramento dei cani, che non dovrebbero più fare training. Voglio ricordare a queste persone che stiamo parlando di natura delle cose, la natura del cane è fare cose con l'essere umano, se non le fa il cane sta male. idioti. No, scusa, la mia parentesi. No, però insomma, perché poi sfruttare questi momenti, sì, certo, qui per dire allora non dovremmo fare nulla, e nascondiamo le nostre incompetenze in questo modo. Non va. No, ma come spesso diciamo, dietro ogni gruppo si nascondono delle persone incompetenti o che se ne approfittano. Anche gli animalisti, ci sono animalisti che vorrebbero magari onestamente fare animalisti, ma poi sfociano in situazioni o in cose che non comprendono fino in fondo, o in atteggiamenti che non fanno parte proprio di una filosofia che è quella di prendersi cura dell'altro e di non essere mai aggressivo. È detto giusto questo, dire agli animalisti che l'amore non basta, bisogna anche conoscere bene le cose. Esatto, esatto. Allora, una frase che mi ha colpito molto leggendo questo articolo della chiusura del circo Barnum, appunto dopo 146 anni, è che l'ultimo proprietario di questo marchio, di questo grande circo, ha detto: niente è più riuscito a spalancare gli occhi dei bambini, di qualsiasi età. Preferiscono lasciarli fissi, bassi, sui telefonini. Ora che tutto è visibile, tutto a portata, abbiamo liberato gli animali, dato dignità alla diversità. Perché, voglio dire... lui stesso dice, abbiamo dato dignità alla diversità. Adesso mi prendi in contropiede di cosa... Sì, sembra lui stesso. Feld parla della decisione di chiudere con commozione. Le ha provate tutte, moto, acrobati, no, niente. Perché lui dice che praticamente loro hanno provato a iniziare qualche anno fa a non avere più gli animali, perché hanno avuto una causa lunghissima, che sembrava che maltrattassero gli elefanti. Più di una volta, diverse, esatto, denunce. Però loro dicono, loro sostengono, anche alcuni circensi italiani sostengono che senza gli animali il circo non va avanti. Ma dipende come tu ti presenti, perché il, certo, Cirque du Soleil... va avanti sempre, un circo è, va avanti perfettamente con acrobati pazzeschi. La cosa che a me viene da pensare è che forse ultimamente, per pigrizia, comodità, ignoranza, è più facile addestrare un animale che metterti tu a diventare un antipodista, diventare un giocoliere, perché necessita di tantissimo lavoro, di tantissima concentrazione, costanza nel tempo, che ti fa pure bene fisicamente, sì, perché guarda, io se esistesse la scuola di circo per i miei figli li manderei a fare ci sono le scuole circensi che si occupano di questo e non invece di animali, che come sappiamo già soltanto perché sai che tante volte dicono: ma noi in addestramento mica li maltrattiamo, a parte che bisogna vedere, perché ho visto delle, sì, scene, infatti, raccapriccianti, ma non è necessario. Per il solo fatto che un ippopotamo sta in un circo itinerante, lo tieni fuori da dove dovrebbe vivere, quello lì è maltrattamento, e lo si vede da che cosa? Dalle stereotipie di cui gli animali dei circhi sono pieni. Sì. Ora, io non escludo che ci sia anche un cambiamento nei tempi, che appunto la gente si vede le cose sul telefonino, e di vedere gli animali o gli acrobati non gliene frega più nulla. Però se questa è la natura delle cose, amen. Io... Eh sì, è giusto, cioè, che uno poi, prenda... se anche prima era bello avere gli schiavi che ti facevano loro le cose senza pagarli, ma poi ti rendi conto che questo è sbagliato e non lo fai più. Allora oggi ci si rende conto che nei circhi gli animali non ci devono essere, non lo fai più, basta. Non è che devi difendere la tradizione di che? Difendi la tradizione con la gente che consapevolmente sceglie di andare nel circo, di fare l'acrobata, di farsi un culo così e di far divertire che gli fa gente. Pure bene. Fra l'altro, qual è la frase quella famosa: l'uomo che vive più a lungo non è quello più forte, ma quello che si sa adattare di più. No, no? È il principio di Darwin, che spesso da cui è nato poi tra l'altro il darwinismo sociale, sugli studi di Darwin, che era sbagliato. Il darwinismo sociale dice vince il più forte, vince quello più sano. Invece no. Darwin questo non l'ha mai detto. Darwin ha sostenuto sempre che sopravvive e si riproduce quello che è più veloce ad adattarsi all'ambiente. Ecco, quindi circensi, adattatevi ai cambiamenti, il mondo cambia e per certi versi, grazie a Dio, cambia in meglio. Se vi sapete adattare e aguzzate l'ingegno, potete ritrovare e vivere il vostro mondo di circensi itineranti, facendo uno spettacolo meraviglioso e rispettando anche la natura degli animali. Detto ciò, il giorno in cui smette di cambiare, smette di vivere. Bellissima. Con queste pillole di saggezza mie e del dottor Vaira, adesso abbiamo fame. Piatti e ciotole. Oh, e come ogni domenica si avvicina l'ora del pranzo, e noi ovviamente, per invogliarvi ancora di più, abbiamo fatto apposta a mettere questo orario. Siamo qui con la nostra carissima Mara Di Noia. Mara? Sì, buongiorno. Eccoci. Buona domenica. Buona domenica anche a te, che così ci prepari il palato, il gusto a prendere, uscire dagli uffici, fare la pausa pranzo, andare a mangiare qualcosa di sano e di gustoso. Evviva la cucina sana e gustosa. E tu, la cosa bella che fai tu è che quello che tu ci proponi di cucinare lo ricordo, perché magari qualcuno ha iniziato a seguirci da poco: le ricette di Mara Di Noia sono particolari perché si possono condividere con tutti in famiglia, quindi anche con il cane o con il gatto, facendo dei piccoli accorgimenti che poi lei spiega quando dà la ricetta. E la cosa bella è proprio questa, che quando uno ha finito di cucinare impiatta e in ciotole, quindi si mangia veramente tutta la famiglia unita, tutti assieme. Sì, per coloro che ne hanno voglia, perché spesso magari, appunto, come dicevamo in altre occasioni, i gatti non ci seguono così spassionatamente, i cani è più facile che ci seguano, a volte non ci seguono i commensali umani, perché non esatto. tutto piace a tutti, esatto. però ci esatto. si prova, ci si prova. Esatto. Allora, oggi vi propongo un carpaccio rosso, non preoccuparti Rosita, senza carne. Ecco, allora, brava. 200 grammi di valeriana, 4 barbabietole crude, 3 cucchiai di pinoli tostati, 2 cucchiai di capperi dissalati benissimo, 2 cucchiai di olive taggiasche senza il nocciolo, un limone e semi misti tostati, un cucchiaio di olio e un pizzico di sale marino integrale. Dissalati benissimo. Esatto, volevo capire come si dissalano i capperi, perché mi piacerebbe scoprirla questa sotto cosa. Sotto l'acqua corrente? Allora, sotto l'acqua corrente è un finto dissalaggio, quindi mettiamoli a bagno qualche ora prima in acqua e poi veramente quando insomma magari ci alziamo al mattino mettiamo a bagno i capperi in modo tale da eliminare il più possibile la quantità di sale che comunque si racchiude all'interno. Certo. È per quello che dissalarli velocemente sotto l'acqua. No, ma non serve a niente il sale fuori. Esatto. Meno male, almeno l'ho capito perché. Sì, eccoci. Quindi dobbiamo sbucciare le barbabietole, tagliarle molto sottilmente, metterle in uno strato su un piatto abbastanza grande. Quindi condire a parte la valeriana, questa insalata o chiamata anche soncino, a parte con una salsa fatta spremendo un limone in un vasettino piccolo, a cui aggiungeremo 3-4 cucchiai di olio e il pizzico di sale. Chiudiamo questo vasetto e agitiamo energicamente in modo tale da non fare pasticci in cucina, cosa che io faccio regolarmente, quindi è per quello che preciso. Okay. Quindi mettiamo l'insalata condita sopra la barbabietola, aggiungiamo i capperi dissalati, i pinoli, i semi misti e le olive senza il nocciolo, condiamo il tutto con questa citronetta, il pizzico di sale e la citronette, scusami, con la salsina che tu hai detto di fare prima con il limone, di agitare bene tenendo chiuso là. Per il piatto umano possiamo fare di più, quindi possiamo aggiungere delle spezie come ad esempio la paprika e della senape in grani, che è molto molto gustosa. La Dijon, quella che c'ha i granulini? No, io intendevo proprio la spezia insieme. Che fa anche così un po' di scena, perché ci vuole anche la no? senape, proprio la spezia così prima di farci insieme. Esatto. E si può mangiare così? Cosa fa? Sì, si lava, si sciacqua? È un po' piccante, no, la metti così com'è, in grani, così. E ovviamente queste spezie non le mettiamo nella ciotola, certo. Ma possiamo appunto unire questa insalata, perché anche i nostri animali la verdura cruda fa bene, certo. Aggiunta con i classici fiocchi di riso, di quinoa, di quello che abbiamo in casa, oppure i soffiati, che ricordo sono molto digeribili per i nostri animali, perché il procedimento di soffiaggio rompe le fibre contenute nel chicco di cereale e lo rende molto molto digeribile per i nostri animali, quindi possiamo scegliere vari cereali, quindi anche il senza glutine se abbiamo in casa quelli, oppure tutti gli altri, i classici soffiati che troviamo nei supermercati, devo dire la verità, più nei supermercati biologici Ok, perfetto. Beh, Madonna, che buono. Anche questa ve la consiglio perché è molto bella da vedere. No, allora tu devi sapere che io vedevo Angelo con l'occhio pallato, anche perché lui è molto goloso e ghiotto di barbabietola. Anch'io, Angelo. Di barbabietola, quella lì fatta al forno. Io un po' meno, però magari condita così. Non è che a me non piace. Vado però al mio fruttivendolo e gli dico: Dammi la solita barbabietola al forno. Anche mio padre, che quando vado a casa tantissimo. Tolgo la buccia e la mangio così. E invece pensa, sai, quando hai dei ricordi legati a dei momenti particolari, la barbabietola mi ricorda mio papà, perché io sono cresciuta vedendo mio papà golosissimo a mangiare barbabietole tutti i giorni. Guarda Rosita, io ho letto questa frase di recente e non so purtroppo chi è l'autore, che dice questo: che nessun ricordo non ha un sapore. Bello. Ed è magnifica secondo me questa frase, perché è proprio così. È verissimo. Bene, bella, mi piace questa frase. Grazie Mara, buona domenica. Grazie voi, Mara. Buon appetito. Esatto. Ciao a tutti. Mara, ricordiamo che potete riascoltare le nostre ricette sui podcast di Chiedimi se sono felice sul sito di Radio 24 e ci vediamo qui domenica prossima, sempre alle 12 con Rosita Celentano e Angelo Vaira su Radio 24. Ciao.